Ogni anno cerchiamo di focalizzarci su un tema e di affrontarlo attraverso i vari ospiti principali e le mostre principali del festival. E quest'anno è il fantastico, a partire da un ospite eccezionale che non ci sarà fisicamente perché è impossibile, ma è Kirby, che è il disegnatore che insieme a Stan Lee inventò tutti i più grandi eroi dell'era Marvel negli anni 60 e prima ancora negli anni 40 icone come Capitan America. E per noi è anche un po' una novità, perché in genere è difficile che diamo spazio ad autori così pop, così conosciuti, ma Kirby è un grandissimo disegnatore e uno dei grandi maestri del fumetto, quindi non abbiamo avuto la minima esitazione nel momento in cui avevamo la possibilità di fare una mostra su di lui. E lui ci aiuta anche tantissimo ad aprire il discorso verso il fantastico attraverso appunto un'altra serie di ospiti, di cui un altro americano che potrebbe essere un po' un nipotino di Kirby, che si chiama Matt Brinkman. La sua mostra sarà alla Pinacoteca e che è insieme a Kirby un costruttore di mondi. Questo ci interessa, autori che col loro segno e con la loro immaginazione arrivano a costruire veramente dei mondi alternativi. I luoghi del festival quali saranno quest'anno? Alcuni li ho già citati: la Pinacoteca, il progetto Kirby è un progetto speciale della Fondazione del Monte, è sostenuto anche, ci sarà un catalogo sostenuto da Unicredit. Poi Sala Borsa rimarrà il centro nevalgico del festival, con i bookshop, gli autori e le dediche, lo spazio info, e sicuramente molto molto centrale è lo spazio dell'Accademia, per ovvi motivi, chiaramente perché ha un corso dentro di fumetto e illustrazione, e poi perché accanto la Pinacoteca e l'Accademia insieme alla Pinacoteca hanno la maggior parte degli ospiti e delle mostre principali. Ne cito altre due: una è di Francesco Cattani, che è anche l'autore del Manifesto, un autore bolognese, quarantenne, quindi una nuova generazione del fumetto e un nuovo maestro del fumetto, al quale dedichiamo una delle mostre principali, che col libro dello scorso anno ha vinto tutti i premi più importanti in Italia. E l'altro invece è un progetto che si discosta dal fantastico, dalla fantascienza si arriva alla scienza, diciamo, che è un progetto promosso da ERC Comics, dall'Istituto di Ricerca Europea Scientifica, che ha commissionato dei fumetti digitali a tematica scientifica molto molto ampia, e per noi è molto interessante, è un po' la prima chiave di entrata per affrontare il discorso del fumetto digitale, quindi un fumetto fatto apposta per il web, che è una regione sempre più in espansione nel panorama del fumetto contemporaneo e che noi nel tempo vogliamo andare a esplorare. Visto che siamo su questo campo, cosa ne pensi un po' della transmedialità del fumetto? È una cosa che adesso ha, soprattutto con il discorso dei supereroi, ha una grandissima evidenza. Però se penso che Will Eisner, quello che è il fondatore della dicitura graphic novel, e Orson Welles negli anni 40 si copiavano e si spiavano per vedere come fare le inquadrature, è un qualcosa che veramente ha attraversato la storia del fumetto, anche perché il fumetto, mettendo insieme montaggio, immagine, parola, è un linguaggio ibrido per eccellenza, e che quindi si presta tantissimo alle contaminazioni, compresa la musica. Ripeteremo quest'anno la performance di Segno Sonico insieme a Bologna Jazz Festival, che è un laboratorio di improvvisazione tra disegno e musica guidato da Stefano Ricci e Pasquale Mirra, con giovani disegnatori e giovani musicisti del liceo artistico musicale e del conservatorio dell'Accademia, a dimostrare questa natura ibrida del fumetto. Siamo giunti, come abbiamo detto prima, alla 12ª edizione. Come si è evoluto il festival in questi anni? Allora, il festival si sta evolvendo, direi, defestivalizzandosi, nel senso che se prima per noi era importante creare un'occasione per far emergere questo linguaggio, l'importanza e il valore culturale e artistico di questo linguaggio, adesso diciamo questo risultato lo sentiamo abbastanza raggiunto, soprattutto in territori privilegiati come Bologna, e quindi la volontà è quello di lavorare più capillarmente e in periodi di tempo più ampi, in particolare con l'attenzione alla formazione di bibliotecari, di insegnanti, di librai e di ragazzi, per creare nuovi lettori. Diciamo che questo è un po' il nostro nuovo obiettivo. Qualche novità per il festival di quest'anno, qualcosa che non c'è mai stato prima? Ma sempre nell'ottica un po' della formazione di cui stavamo parlando, abbiamo pubblicato, autoprodotto un piccolo quaderno che si chiama In corso d'opera, che analizza il lavoro e l'opera degli autori principali in mostra. E per noi è una sorta di guida alla lettura delle motivazioni del festival e in particolare dell'opera di questi autori. Operazioni come questo tipo, di questo tipo, che sono appunto di promozione della lettura, per noi incarnano molto molto bene la nuova natura del festival e le sue prospettive.